a margine del forum pubblico promosso da Arci e CGIL dal titolo Immigrazione, l'alternativa possibile al proibizionismo, si è parlato della legge Bossi-Fini, definite una barriera, e non solo. Nell'emergenza quotidiana ricorrente, il fenomeno dell'immigrazione deve essere affrontato con una nuova filosofia, non più proibizionista, con più protagonismo degli enti locali, dell'associazionismo e delle forze sociali. Il governo usa toni retorici e demagogici, continuando a costruire barriere legali ed ideologiche nei confronti degli immigrati. Dunque è necessaria una forte ripresa della mobilitazione e di iniziativa. Per il 18 dicembre, giorno in cui l'ONU ha stabilito essere dedicato al diritto dei migranti, sindacati e associazioni sono promotori di una manifestazione che può segnare una nuova stagione per i diritti dei migranti. I nemici sono il lavoro nero, le quote e soprattutto i centri di permanenza temporanea, che segnano una diseguaglianza costituzionale per gli stranieri. Le proposte emerse per superare questi limiti sono incentrate verso una maggiore estensione dei diritti fondamentali per i migranti, dal diritto d'asilo ai diritti dei minori, a quello dell'unità familiare. Siamo con l'onorevole Giovanni Russo Spena, deputato di Rifondazione Comunista. Lei ha proposto di costituire un blocco sociale contro quelle che sono le vere prospettive del governo Berlusconi, cioè non più tanto le prospettive ma quanto i fatti concreti, cioè la legge 30 sul lavoro e la Bossi-Fini. Ci vuole dire in sintesi qual è la sua opinione? Io penso che oltre i termini noti di razzismo, di xenofobia, concentrato sulle espulsioni, sui centri di permanenza temporanea che sono le proprie galere etniche, sul fatto che l'82% dei fondi del governo italiano, fondi dello Stato, vengono spesi dal governo italiano per le espulsioni e non per i centri di accoglienza o per i livelli di integrazione fra persone uguali e diverse, quali sono appunto i migranti, penso che il punto fondamentale da discutere sia il mercato del lavoro, perché difatti anche la impossibilità di una ricerca del lavoro regolare in Italia da parte dei migranti è incentivazione alla clandestinità ed è incentivazione a un mercato del lavoro precario. E infatti io credo che vanno letto insieme appunto la legge 30, cioè la legge sulla precarizzazione, e la legge Bossi-Fini. Io ritengo che siano entrambe delle leggi sul lavoro, delle leggi di ricostruzione del mercato del lavoro precario. Basta vedere che per esempio la legge Bossi-Fini viene a cadere il divieto di interposizione della manodopera e quindi si creano i nuovi caporalati di massa a livello internazionale, da Roma a Bucarest, a Timisoara o a Marrakesh in Marocco, cioè abbiamo dei veri e propri mercati di schiavi che sono collegati via computer. Ecco, questo perché? Perché ovviamente i clandestini, i migranti clandestini sono maggiormente ricattabili e quindi fanno cadere più facilmente le tutele sia sindacali, sia le tutele salariali e così via. Quindi vengono utilizzate per tenere basse le garanzie complessive del mercato del lavoro. Quindi quando parlo di blocco sociale intendo di questo, per tornare al punto della domanda. Mi fa molto piacere che l'ARCI, la CGIL, i partiti politici questa mattina abbiano posto questo tema fondamentale, perché io credo che i lavoratori e le lavoratrici italiane, i disoccupati italiani e i migranti debbano insieme costruire un blocco sociale che lotti contro queste norme che precarizzano in maniera grave il mercato del lavoro. Questo, diciamo, è un modo diverso, alternativo, più sociale, io credo, di guardare al tema delle migrazioni, al tema dell'unità sociale, dell'unità di classe. Bene, ringraziamo l'onorevole Giovanni Russo Spena. Siamo in collegamento con Piero Soldini. Lei è responsabile immigrazione CGIL. Qual è il piano della CGIL per gli immigrati in Italia? Ma noi abbiamo avanzato come sindacato una piattaforma sulla quale terremo sabato prossimo una manifestazione nazionale a Roma, non solo come CGIL ma insieme alla CISL, alla UIL, e fra l'altro un fatto significativo è che a questa manifestazione ha aderito anche l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e questa piattaforma sostanzialmente è incentrata sulla costruzione, diciamo, di un circuito di immigrazione legale nel nostro paese che possa combattere da una parte il fenomeno della clandestinità e dall'altra che possa, diciamo, risolvere le emergenze che ci sono nel nostro paese rispetto al fabbisogno di manodopera. In realtà che cosa accade oggi? La legge Bossi-Fini è una legge barriera all'immigrazione che produce problemi e vessazioni sia per gli immigrati e sia per le famiglie e le imprese che devono utilizzarli. E fra l'altro, pur essendo una legge barriera all'immigrazione, non è assolutamente in grado di arginare comunque il fenomeno del flusso migratorio. Quali sono le vostre proposte come sindacato? Noi appunto chiediamo innanzitutto che si istituisca un permesso di soggiorno per ricerca di occupazione e che questa strada possa rappresentare appunto un veicolo di ingresso legale per ricerca di lavoro da parte degli immigrati. Se questo avviene significa che bisogna superare la politica delle quote e bisogna costruire un meccanismo che mette in comunicazione i lavoratori, diciamo, sul mercato del lavoro, quindi un collegamento tra domanda e offerta di lavoro. Quindi fuori dal proibizionismo e fuori dalle quote, dal numero chiuso, noi chiediamo una gestione aperta delle frontiere che possa, diciamo, rispondere al fabbisogno di manodopera immigrata che ormai è praticamente sotto gli occhi di tutti. Lo dicono non solo le organizzazioni sindacali, ma lo dicono le associazioni degli imprenditori, qual è appunto la necessità che il nostro paese ha di giovarsi di questa manodopera. Senza immigrati questo paese sarebbe un paese più povero, più vecchio e più disastrato. Con gli immigrati questo paese riesce a immaginare, diciamo, un proprio sviluppo, un proprio futuro anche dal punto di vista della, diciamo, del superamento del declino demografico che è tipico dell'Italia e anche di molti paesi dell'Europa. Bene, ringraziamo Piero Soldini, responsabile immigrazione CGIL. Lorenzo Lania, Amisnet.